hanno aperto il cranio, hanno visto che hai una coscienza e troppe idee non conformi a questa nuova realtà. La decisione allora è stata di rifare tutta quanta l'impostazione dei tuoi sentimenti, che sono troppo buoni e altruisti. Ti hanno aperto tutto il cranio e hanno detto che era meglio trapiantare tutto quanto e diventar nuovo, nuovo, nuovo, nuovo del futuro, un uomo senza più passato, un uomo tutto sistemato, regolato e assemblato bene. E non sai adesso che te ne vai, cosa c'è nel futuro e buttato in mezzo ai sassi. Poi ti hanno chiuso la bocca mettendoci sopra un sorriso nuovo di zecca. L'hanno saldato e collegato a un mondo tutto smaltato. Anche gli occhi ti hanno spento. Troppi sguardi, troppe immagini dentro, di vita vissuta, vissuta. E ti hanno spezzato le gambe, perché facevi troppa strada da solo e non seguivi. Hanno detto che ti hanno salvato da un anticonformismo troppo spiccato. E così ora sei primo, il primo migliore, l'uomo diverso, l'uomo composto, primo, il modello da imitare. C'è il futuro.